Funambule, spazio al femminile, intersezioni e condivisioni, tanta buona musica e stimolazioni multidisciplinari, fra storia, biografie, arti, scienze, culture, ecologie. Funambule! Buonasera a tutte, tutti, tuttu. Siamo qua di nuovo con Funambule e oggi inizieremo la nostra puntata 1. Benissimo, allora ho pensato intanto di dare una sorta ancora di panoramica generica per poi arrivare a quello che sarà veramente il nostro percorso che vi raccontavo già la prossima volta, dalle suffragette a Donna Haraway. Quindi niente, ho selezionato praticamente per tutte e tutti voi una così, una selecta molto piccola di tutto quello che possiamo incontrare per così stimolare dei pensieri più variegati possibili, e quindi questo è quello che succederà oggi a Funambule. Benissimo, direi di iniziare dal primo contributo, che è particolarmente succoso. E, insomma, ho pensato che era importante dare alcune referenze, diciamo così, proprio basic, un po' anche stimolata da tutti i vostri feedbacks della puntata zero, che sono stati tutti molto molto molto positivi. Vi abbraccio tutto. E, inciso, quando diciamo tutto, o comunque tutte le finali con AU, non è un dialetto sardo, ma in realtà, diciamo così, è il risultato di un percorso fatto soprattutto dentro il movimento di Una di Meno a livello globale, e quindi poi si declina anche nella nostra lingua italiana, nel senso che U dovrebbe essere la possibilità di unire tutte le possibilità dei generi, quindi tutte le soggettività antipatriarcali vengono nominate senza dover dire tutte, tutti, tutto, noi diciamo tutto, quindi quando diciamo ciao tutto vuol dire che stiamo dicendo ciao a ognuna e ognuno e ognuno. Molto bene, questo piccolo inciso che avevo già detto l'altra volta, ma continuo a ripeterlo perché è importante non confonderci, quindi quando dico tutto non sto parlando in sardo. Molto bene, allora... come dire, ho pensato che fosse fondamentale che noi iniziassimo appunto da alcune questioni base per avere alcune referenze bibliografiche, ma anche, come dire, fondanti, ok? E quindi, insomma, diciamo che inizierò un po' omaggiando la storia del femminismo italiano. E, insomma, ci sono tantissime cose che si possono leggere o da cui si può partire. Però diciamo che forse... un testo particolarmente importante che, come dire, ha fatto proprio un lancio, cioè è stato un po' un trampolino di lancio anche per poi tutto un discorso molto più approfondito su quello che poi è successo nel femminismo degli anni 70, fu il libro Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi. Carla Lonzi, tra l'altro, diciamo, abbiamo un legame un po' particolare perché era proprio di qua, era proprio fiorentina, e è stato, insomma, forse il personaggio più importante a livello teorico, che più a cavallo tra gli anni 60 e 70 e l'inizio degli anni 70 ha influenzato il femminismo italiano, avendo anche un peso sul femminismo internazionale. Era un personaggio sui generis che ha fatto tutto quello che ha voluto in tutta la sua vita, e purtroppo forse è finita un po' presto. Comunque, diciamo, questi scritti che sono, cioè in realtà Sputiamo su Hegel, sono vari scritti, tra cui c'è anche proprio lo scritto Sputiamo su Hegel, però in questo libro di et al, edizioni et al, viene ripubblicato dal 2013 quello che era il testo che riuniva vari scritti che erano già stati pubblicati a cavallo degli anni 60-70 su Rivolta Femminile, che era appunto un organo di informazione femminista fondamentale di quei tempi, dove c'era dentro anche appunto Carla Lonzi. E quindi, diciamo, poi vengono riunite tutta una serie di selezioni di questi testi che cominciano a uscire nel 70, fanno nuove edizioni nel 71, nel 73 e poi raccolte tutte insieme in un unico grande volume nel 74, sempre appunto a cura di Rivolta Femminile. Allora, io niente, ho un testo molto più recente che risale a una nuova edizione che è stata rivista dal 2010 e niente, praticamente vi leggo così brevemente di cosa parla, così. Tra i più importanti testi femministi italiani, Sputiamo su Hegel dà avvio, proprio nel 1970, a un nuovo modo di pensare a partire dall'essere donne e al di fuori della tradizione filosofica egemone dell'Occidente. Il volume raccoglie, oltre a questo testo fondamentale, scritti firmati personalmente da Carla Lonzi e altri firmati collettivamente dal gruppo Rivolta Femminile, che dalla primavera del 1970 ai primi mesi del 72 segnarono una rottura teorica con il monologo della civiltà patriarcale. Se la causa della donna si pone, è una causa vinta. Finora il mito della complementarietà è stato usato dall'uomo per giustificare il proprio potere. Il destino imprevisto del mondo sta nel ricominciare il cammino per percorrerlo con la donna come soggetto. Carla Lonzi, nata nel 1931, morta nel 1982, quindi purtroppo molto giovane, a 50 anni, scrittrice e critica d'arte, si è occupata tantissimo d'arte, faceva anche arte, è stata un'iniziatrice del femminismo, dell'autocoscienza, della differenza sessuale. Le sue opere, vengono citate tantissime, insomma, opere, quali appunto quelle più famose, Taci, anzi parla, Autoritratto, Vai pure, scritti sull'arte, ma insomma ne ha scritte tantissime, ha curato tantissime anche edizioni per altre donne che si sono poi messe a scrivere sempre di più. Ma qui vale la pena nell'edizione che ho io di ricordare anche il contributo di Maria Luisa Boccia, che tra l'altro un po' mi emoziona perché è stata anche la mia professoressa all'università proprio di scienze politiche quando ho dovuto dare l'esame di filosofia politica. Quindi comunque insomma, poi io credo che Maria Luisa Boccia sia una bella erede di tutto quel periodo, che è stata anche in Parlamento e tutto. Una bellissima donna ha curato per questa edizione che io ho in mano la postfazione al libro. E, allora, diciamo, vi leggo velocemente come facciamo di solito il sommario, che è molto breve per renderci un po' un'idea panoramica e di mappatura di quello che è il testo, per poi vi dirò quale testo ho scelto di leggervi per così darvi una piccola stimolazione. Secondo me è molto molto bello perché è profondamente esplicito ma puntuale. E quindi insomma ci addentreremo in questioni di cui non si parla mai, ma che sono fondamentali dal punto di vista di comprendere nel profondo da dove parte la teoria del femminismo e da dove parte l'esigenza anche di fare un approfondimento più ampio nel senso del femminile, del simbolico e di tutti i segni che ciò porta. Allora, il sommario di Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi funziona così. C'è una premessa. E poi partono tutti, c'è una premessa proprio di Carla Lonzi, e poi c'è tutta una serie di 1, 2, 3, 4, 5, 6 scritti raccolti che venivano appunto in quegli anni, tra il 70 e il 72. Allora c'è il manifesto di rivolta femminile, che una delle prossime puntate vi leggerò perché è bellissimo. Poi c'è il testo proprio che ha dato il titolo al libro, Sputiamo su Hegel. Il terzo che è Assenza della donna dai momenti celebrativi della manifestazione creativa maschile. Testo molto interessante, di cui forse bisognerebbe parlare un po' di più, forse dai testi meno riconosciuti di Carla Lonzi, meno chiacchierati. 4. Sessualità femminile e aborto. 5. La donna clitoridea e la donna vaginale. 6. Significato dell'autocoscienza nei gruppi femministi. Cioè, direi che ogni cosa è un mondo gigantesco. Bellissimo, forse avete già capito, io chiaramente di tutti questi testi per fare il nostro approfondimento oggi su Funambole puntata 1 non potevo che scegliere lui, è il testo che maggiormente secondo me poi ha caratterizzato tutto il dibattito, che è quello La donna clitoridea e la donna vaginale. Andiamo qui allo scritto e vi leggerò alcuni pezzetti brevemente perché poi Funambole è tutto sempre di corsa. Quindi, dice Carla Lonzi, la donna clitoridea e la donna vaginale. Il sesso femminile è la clitoride, il sesso maschile è il pene. La vagina è la cavità del corpo femminile che accoglie lo sperma dell'uomo e lo inoltra nell'utero affinché avvenga la fecondazione dell'ovulo. È attraverso questa cavità che il corpo del figlio esce da quello della madre. Il momento in cui il pene dell'uomo emette lo sperma è il momento del suo orgasmo. Sono semplici gli uomini, no? La vagina è dunque quella cavità del corpo femminile in cui contemporaneamente all'orgasmo dell'uomo inizia il processo di fecondazione. Nell'uomo, dunque, il meccanismo del piacere è strettamente connesso al meccanismo della riproduzione. Nella donna, meccanismo del piacere e meccanismo della riproduzione sono comunicanti, ma non coincidono. Ecco che le donne, ci dice subito Carla Lonzi, sono molto più sofisticate nelle loro possibilità del piacere. Aver imposto alla donna una coincidenza che non esisteva come dato di fatto nella sua fisiologia è stato un gesto di violenza culturale che non ha riscontro in nessun altro tipo di colonizzazione. Vado avanti, ci sono vari altri pezzi dove lei qui si sofferma più su questioni anche multietniche, che però adesso non abbiamo troppo tempo per approfondire, comunque tutte molto interessanti. Andiamo qua. Col modello sessuale imposto dall'uomo, la donna, privata della scoperta e della manifestazione della sua propria sessualità, acquisisce la rinuncia e la sottomissione come caratteristiche del suo essere femminile. Godendo di un piacere come risposta al piacere dell'uomo, la donna perde se stessa come essere autonomo, esalta la complementarietà al maschio, trova in lui la sua motivazione di esistenza. La cultura sessuale patriarcale, essendo rigorosamente procreativa, ha creato per la donna un modello di piacere vaginale. Contraccettivi, aborto e sterilizzazione rivelano una incongruenza del mondo patriarcale e si mettono in evidenza che procreazione e piacere non possono più essere identificati. Ma invece di porre in discussione il modello sessuale procreativo come modello naturale, tra virgolette, essi lo riconfermano mobilitando una serie di misure che rendano l'atto procreativo non procreativo. La sessualità a modello procreativo si manifesta per quello che è. Una cultura i cui valori e i cui tabù riflettono il concetto di natura, tra virgolette, che vi è stato elaborato in relazione agli scopi della civiltà che l'ha espresso. E qui, vabbè, va avanti su tutta la questione del controllo delle nascite, eccetera, eccetera, ci fa tutti gli schemi su i vari momenti, no? Quindi eccitamento, plateau, orgasmo femminile, ci mostra tutti i disegni del corpo della clitoride, che è fatto da varie parti, insomma, vabbè, qui c'è tutta questa cosa qua. Io però volevo arrivare a, c'è cioè una parte molto intensa, ecco qua. I ruoli di moglie e di madre in cui la donna dovrebbe realizzarsi nel mondo patriarcale rischiano così di rivelarsi una struttura alienata. La libertà sessuale nel matrimonio e la maternità per libera scelta tendono a ridare dignità sociale a questi ruoli, ma sono surrogati di contenuti liberatori, vere e proprie riforme, mentre il mondo patriarcale e la sua cultura, per porre rimedio al programma demografico, non riescono a intuire nessun cambiamento di cultura sessuale che liberi il piano del piacere dalla condanna procreativa. La donna vi scopre la circostanza per operare quel salto di civiltà che corrisponde al suo ingresso nel rapporto erotico come soggetto. Finalmente un rapporto erotico come soggetto, non come oggetto del piacere, ma come soggetto erotico. Ecco che un organo di piacere indipendente finalmente dalla procreazione, quale è la clitoride, perde quel ruolo secondario e transitorio nella sessualità femminile che le era stato decretato dal patriarca e diventa l'organo in base al quale la natura autorizza e sollecita un tipo di sessualità non procreativa. La funzione del piacere collegata alla procreazione si distingue dalla funzione del piacere indipendente dalla procreazione. Chiaro? Cioè lui, lei dice, la funzione del piacere collegato alla procreazione, cioè che io vado a letto con un uomo perché mi voglio far fecondare, si distingue dalla funzione del piacere indipendente dalla procreazione, cioè tutte le volte che io ho rapporti sessuali con X generi, come mi pare, perché in realtà voglio provare piacere, voglio godere, voglio stare bene, non perché voglio rimanere incinta o avere delle figlie, dei figli, eccetera. E va avanti e dice: infatti, la prima è di garantire la continuazione della specie, la seconda di esprimere una necessità biologica fondamentale. fondamentale dell'individuo. Andando avanti, procede e dice: la complementarietà è un concetto che riguarda la donna e l'uomo nel momento procreativo, non in quello erotico sessuale. Non è bellissimo? Lo rileggo. La complementarietà è un concetto che riguarda la donna e l'uomo nel momento procreativo, non in quello erotico sessuale. La donna si chiede su quale base si è postulato che il piacere clitorideo esprime una personalità femminile infantile e immatura. Forse perché esso non risponde al modello sessuale procreativo? Ma il modello procreativo non è quello in cui si è cristallizzato il rapporto eterosessuale anche quando il fine procreativo viene accuratamente evitato, secondo la netta preferenza del pene egemone? Dunque il piacere clitorideo deve il suo discredito al fatto di non essere funzionale al modello genitale maschile. Il comportamento erotico dell'uomo verso la donna, mentre da un lato è quello di eccitarla, dall'altro è quello di renderla succube e dipendente. Questa correlazione apre alla donna la possibilità di un coito psichicamente accettabile. La donna non ha bisogno di apprezzarsi attraverso l'attenzione che l'uomo le rivolge nei riti del corteggiamento. Se non fosse di fatto così inferiorizzata e oggettualizzata, non servirebbe più l'adulazione maschile come compensazione e riscatto. Per godere pienamente dell'orgasmo clitorideo, la donna deve trovare un'autonomia psichica dall'uomo. Questa autonomia psichica risulta così inconcepibile per la civiltà maschile ed è stata interpretata come un rifiuto dell'uomo, come presupposto di una inclinazione verso le donne. Nel mondo patriarcale, dunque, le viene riservato in più l'ostracismo che si ha per tutto ciò che si sospetta un'apertura all'omosessualità. Non ci pronunciamo sull'eterosessualità, non siamo così cieche da non vedere che è un pilastro del patriarcato, non siamo così ideologiche da rifiutarla a priori. Ognuna di noi può studiare quanto le piace o spiace il patriarca e quanto l'uomo. Dal punto di vista patriarcale, la donna vaginale, fermo restando che il fenomeno orgasmico è unico in qualsiasi donna e con qualsiasi stimolo si verifichi, noi chiamiamo qui donna vaginale colei che ottiene l'orgasmo durante il coito e donna clitoridea colei che ottiene l'orgasmo durante le carezze sulla clitoride. Chiamiamo l'orgasmo vaginale l'orgasmo ottenuto durante il coito e l'orgasmo clitoridea l'orgasmo ottenuto durante le carezze sulla clitoride. Perché, a chi non fosse chiaro, la donna ha la possibilità di avere due orgasmi, non uno, due. Dal punto di vista patriarcale, la donna vaginale è considerata quella che manifesta una giusta sessualità, mentre la clitoridea rappresenta l'immatura e la mascolinizzata. Per la psicoanalisi freudiana, addirittura la frigida. Invece, il femminismo afferma, udite udite, invece il femminismo afferma che la vera valutazione di questa risposta al rapporto col sesso che opprime è la seguente: la donna vaginale è quella che in cattività è stata portata a una misura consenziente per il godimento del patriarca, mentre la clitoridea è una che non ha condisceso alle suggestioni emotive dell'integrazione con l'altro, che sono quelle che hanno presa sulla donna passiva e si è espressa in una sessualità non coincidente col coito. Tra queste due risposte alla condizione della cultura sessuale maschile si pone tutta quella parte di donne la cui situazione nel sesso riflette una scarsa possibilità di identificarsi nel fenomeno in un'infinità di circostanze soggettive e oggettive che arriva fino alla negatività assoluta in qualsiasi forma di sessualità. La donna avverte inconsciamente l'atto di sottomissione che le è richiesto per farla accedere al piacere eterosessuale. L'ideale monogamico che le viene imposto trova un punto di saldatura con la sua autenticità. Infatti le permette di nobilitare in un rapporto unico quella dedizione all'altro che, se estesa a più uomini, perderebbe il suo valore etico, di scelta particolare e particolarmente motivata per rivelarsi un condizionamento generalizzato delle donne a favore dell'uomo. La donna monogamica, di cui parla Engels come portatrice del valore di coppia, è la donna colonizzata dal sistema patriarcale. La gelosia maschile difficilmente si placa anche quando la donna affermi di aver avuto un puro rapporto sessuale senza ulteriori coinvolgimenti, ma l'uomo sa che per la donna nell'attuale cultura sessuale non esiste un rapporto senza coinvolgimenti. L'uomo prende, la donna si dà. Tu ti richiami, ricordiamoci, l'uomo prende, la donna si dà, questa è l'essenza del patriarcato. Tu ti richiami all'emancipazione nel contegno femminile che dovrebbe attivizzarsi, prendere iniziativa, trovano nella donna una comprensibile resistenza. Infatti, che significa per lei sollecitare un uomo al rapporto sessuale quando poi quello che si svolgerà fra loro sarà il rapporto sessuale condotto dall'uomo? La donna clitoridea rappresenta tutto ciò che di autentico e di inautentico del mondo femminile si è staccato dal visceralismo con l'uomo. Ripeto, la donna clitoridea rappresenta tutto ciò che di autentico e di inautentico del mondo femminile si è staccato dal visceralismo con l'uomo. Autenticamente l'una ha rivendicato se stessa, estraniandosi, l'altra ha simulato sul piano del piacere e ha ambito i traguardi dell'uomo sul piano culturale e sociale. Direi che mi fermo qui perché c'è tantissimo, come vedete è bellissimo e eccolo qua. lei era la mitica Amy Winehouse. Altro enorme esempio di empowerment femminile, grande successo, anche lei poverina. Come dire, il successo gli ha portato via la vita, quindi se n'è andata giovanissima, 27-28 anni, e la ricordiamo con grandissimo affetto. Amy Winehouse, in qualche modo, è stata una di quelle cantanti che personalmente mi ha cambiato la vita quando. La mia cara amica che viveva a Londra, Guia, mi portò questo primo CD, non conoscevo ancora Amy Winehouse, impazzì. E credo un po' che mi abbia anche influenzato nel suo modo così vintage di vestire, di essere, di fregarsene. E, bellissimo, cioè quel pizzico di arroganza che ci vuole per essere se stesse. E niente, praticamente alla fine sarà questa un po' una puntata strana perché Carla Lonzi mi ha avvolto più di quello che io pensavo, è imprevedibile questa situazione in radio, cioè ogni volta penso di fare una cosa ne succedono altre mille, quindi abbiamo pochissimi minuti e allora io finirò così, perché insomma tra le altre cose che avevo selezionato e che rimandiamo alla prossima volta, ovviamente tra le basic, delle basic, delle basic, delle basic, non poteva non mancare lei, colei che forse è la capostipite di tutto, e parto da quello che scriveva. In una lingua antica e lontana, ma io adesso ve lo leggo già tradotto in italiano. Ecco qua, una cerimonia sacra. Vieni, oh vieni, vieni per me da Creta, in questo tempio sacro, qui dov'è un bel bosco di meli e aree sentono di incenso, scroscia l'acqua fresca tra i rami dei meli. Ed è un'ombria di rose, stilla dalle foglie che frusciano un sapore strano. Il prato tutto un rigoglio di fiori di primavera, vi pascolano i cavalli, soffiano brezze, dolcemente. Lì, vieni, cipride, inclina l'anfora leggiadra mente, versa in coppe d'oro nettare con gioia. Bellissimo. E lei ovviamente era Saffo. E questo è un bellissimo libretto di pochissime pagine, delle edizioni Ponte alle Grazie Poesia. Si chiama Tramontata è la luna, è una raccolta dei frammenti di Saffo. E insomma, per chi non sapesse chi fosse Saffo, vi leggo un piccolo approfondimento. Saffo nacque nell'isola greca di Lesbo, da cui appunto oggi noi parliamo di lesbismo, no? Proprio in omaggio a lei, a Saffo. Quindi Saffo nacque nell'isola greca di Lesbo intorno al 630 a.C. da una famiglia aristocratica, sposò Cercila, un ricco cittadino di Andros, ed ebbe una figlia che volle chiamare Cleis, come la madre. A causa dei rivolgimenti interni che coinvolsero la famiglia, fu costretta a fuggire in Sicilia verso la fine del VII secolo. In patria diede vita a un tiaso di fanciulle poste sotto la protezione di Afrodite, che venivano educate secondo gli ideali aristocratici della grazia e della bellezza. Una sorta di gineceo. Alcuni secoli dopo la sua morte, i filologi di Alessandria curarono un'edizione delle sue liriche in ben 9 libri che andarono perduti in epoca tardoantica, ahimè. Dei circa 12.000 versi di cui consisteva anticamente l'opera, restano poco più di 200 frammenti, per un totale di circa 500 versi, cioè niente, praticamente ci rimane la polvere, spesso di difficile leggibilità e interpretazione. E magari una prossima volta vi leggo altre cose di Saffo direttamente in greco antico. E quindi io vi saluto, ci vediamo fra 2 settimane. Oggi è stata una puntata un po' strana, volevo parlarvi anche di altri due testi, però insomma, è così. Carla Lonzi ci ha assorbito e quindi vi abbraccio e sta finendo il tempo. Andiamo al nostro leitmotiv di incontro e questa volta sarà tutta al femminile ed eccole qua. A prestissimo, vi lascio con l'ultima canzone che sarà una sorpresa, ma tanto le riconoscerete subito. Vi abbraccio forti, tutte, tutti. Funambole! E questa era Lady Liviet. Ciao, ci vediamo tra 2 settimane. Wombat.noblogs.org. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

funambule, spazio al femminile.